67. Pastine o capellini sul brodo di ombrina. L'ombrina, per essere un pesce dei più fini, lessata naturalmente, cioè senza odori di sorta, vi somministra un brodo che, quasi come quello di carne, si presta per una minestra leggera di magro. Le seguenti dosi saranno sufficienti per 3 persone e forse anche per 4. Ombrina grammi 500, pastine o capellini grammi 120, burro grammi 30, acqua 1 litro. Mettete al fuoco l'ombrina nella detta acqua di acia e salatela. Quando è cotta, passate il brodo dal colino e in esso cuocete la minestra, aggraziandola col suo di pomodoro per occultare il puzzo del pesce. Indi versatela nella zuppiera ove avrete collocato il pezzo del burro. Servitela con parmigiano a parte, come si usa per le minestre di grasso.